sì, è un campionatore drum machine. All'inizio disegnata da Roger Lee. C'è chi usava 900, 950 Kai. Chi rola no più lo-fi, Lansonic, Lemax, 12 bit. Ho la più leggendaria SP. Con l'808 super bassi da sotto. Con la 303 super bassi tech. Col Mood, Prodigy o l'MS-20. Col Casio come Prince Ball ai vecchi tempi. Gemini, il Vestax, il Rene, Leclerc. I giradischi 1200 SL. L'equipaggiamento per viaggiare. Il gusto che tu vuoi assaggiare. Musicale, composto da chi sa cucinare. La ricetta del suono che spacchetta. Pump it up, homeboy, kick it selecta. Pump it up, homeboy, kick it selecta. Pump it up, homeboy, kick it selecta. Pump it up, yeah, kick it selecta. Pump it up, homeboy, kick it selecta. Pump it up, homeboy, kick it selecta. Pump it up, homeboy, kick it selecta. Pump it up, yeah, kick it selecta. Ehi tu, ne vuoi di più? Vieni a fare un giro con il Red Dead Roof. Ehi tu, ne vuoi di più? Vieni a fare un giro con il Red Dead Roof. Ehi tu, ne vuoi di più? Vieni a fare un giro con il Red Dead Roof. È stato Puller che ha esprimersi loopando i funky breaks. Con lo scratch evolve l'arte Grandmaster Flash. Bambata introduce l'elettro tedesca Rocksteady. NYC gira sulla testa nella festa nel Bronx, dominato dai gangsta. Lo stile, le cinture col nome, i graffiti sui treni, sulle linee sotterranee in circolazione. L'hip hop si diffonde di nazione in nazione, dal quartiere alla radio alla televisione. Ha più di 30 anni di cultura ed evoluzione. È una forma veloce di comunicazione. Mischi suoni di momenti e provenienze diverse, con un occhio di riguardo alle basse frequenze. L'equipaggiamento per viaggiare, il gusto che tu vuoi assaggiare. Musicale, composto da chi sa cucinare. La ricetta del suono che spacchetta. Pump it up, homeboy, kick it selecta. Pump it up, homegirl, kick it selecta. Pump it up, homeboy, kick it selecta. Pump it up, yeah, kick it selecta. Ehi tu, ne vuoi di più? Vieni a fare un giro con il Red Dead Roof. Ehi tu, ne vuoi di più? Vieni a fare un giro con il Red Dead Roof. Ehi tu, ne vuoi di più? Vieni a fare un giro con il Red Dead Roof. Il re, il re, il re, il re, il re, il re, il re, il re del Groove. Ehi tu, ne vuoi di più? Vieni a fare un giro con il Red Dead Roof. Ehi tu, ne vuoi di più? Vieni a fare un giro con il Red Dead Groove. Ehi tu, ne vuoi di più? Vieni a fare un giro con il Red Dead Groove. Il re, il re, il re, il re, il re, il re, il re, il re, il re del Groove. Pump it up, homeboy, kick it selecta. Pump it up, homegirl, kick it selecta. Pump it up, homeboy, kick it selecta. Pump it up, yeah, kick it selecta. Pump it up, homeboy, kick it selecta. Pump it up, homegirl, kick it selecta. Pump it up, homeboy, kick it selecta. Pump it up, yeah, kick it selecta.